successivo tu sarai contento bene. Sei suoi, Ti spacchiamo anche il locale. Ci giochiamo e gratta e vinci. Prendi rete a primo colpo.